Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Ciao a tutti e ben ritrovati, io sono Anna Maria Ciappa e vi terrò compagnia con la quinta puntata della rubrica Radio Giovani in Azione, rubrica promossa nell'ambito delle attività dello sportello Giovani per l'orientamento e l'informazione del distretto D2, composto dai comuni di Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Cianciana, Alessandria della Rocca e San Biagio Platani. La scorsa settimana abbiamo parlato delle opportunità offerte dal programma Gioventù in Azione e nello specifico della misura relativa alle iniziative giovanili con la giovane presidente di una cooperativa sociale palermitana. Oggi invece parleremo dell'azione 2 del programma, vale a dire il servizio volontario europeo, che permette ai giovani di svolgere un'attività di volontariato in un paese del programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi, lavorando come volontari europei in progetti locali in vari settori come quello della cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo e tanto altro ancora. Facciamo una brevissima pausa, a dopo per ulteriori approfondimenti. Radio Libriamoci Web. Ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Eccoci rientrati con Angela Solaro, collaboratrice dello sportello Giovani di Bivona. Angela, che cosa prevede esattamente un'esperienza di servizio volontario europeo? Ciao a tutti e bentrovati. Il servizio di volontariato europeo permette ai giovani di effettuare un'esperienza all'estero per un periodo che può andare da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 mesi, diverso da quello di residenza. Il servizio di volontariato europeo è una di quelle esperienze che si affianca ad esempio come alternativa valida al servizio civile, quindi un'esperienza di apprendimento non formale che è in linea con il programma Gioventù in Azione. Quali sono gli obiettivi del servizio volontariato europeo? Il servizio di volontariato europeo prevede tra gli obiettivi principali quello della crescita personale dell'individuo. Non si tratta infatti di lavoro, di tirocini o di stage all'estero, ma si tratta di esperienze di vita, attività svolte all'interno di istituti, di centri, ad esempio lavorando con i disabili mentali o con bambini, o anche presso strutture associative che lavorano con i giovani. Qual è il limite di età per partecipare allo SBE e cosa si fa? Il limite di età per partecipare allo SVE va dai 18 ai 30 anni e bisogna essere ovviamente legalmente residenti in uno dei paesi aderenti al programma. Le attività che si possono svolgere sono molteplici, basti pensare che il database dei progetti SVE è un database molto ampio, si divide per tematiche e obiettivi. I giovani possono avere un'attitudine, un interesse particolare e usare questo criterio per cercare sul database un progetto all'estero di servizio di volontariato europeo. Dopodiché possono trovare nello stesso database, che è raggiungibile attraverso il sito dell'Agenzia Giovani, anche l'ente di invio al quale appoggiarsi per partire, quindi si può fare prima una cosa o prima l'altra. Oppure avere prima l'ente di invio e cercare assieme all'operatore, come può avvenire con il nostro sportello di Bivona, il progetto più adatto alle proprie esigenze. In quali ambiti le attività possono avere luogo? Gli ambiti sono molteplici, vasti, riguardano tutte le aree che hanno a che fare con lo sviluppo delle abilità individuali, quindi la cultura, la vita associativa, lo sport, il tempo libero. Ovviamente c'è quasi sempre un rapporto con l'utenza. E comunque il valore aggiunto di un'esperienza di questo tipo è sicuramente l'acquisizione di abilità linguistiche, perché ovviamente si deve parlare nella lingua del paese in cui si effettua l'esperienza di volontariato europeo, ma anche abilità sociali, in quanto si ha a che fare con enti associativi e con persone appartenenti alla comunità locale. Nessun progetto di servizio di volontariato europeo avviene solo nell'ente, bisogna anche considerare tutta la dimensione di vita comunitaria che viene effettuata durante l'esperienza, insomma. Radio Libriamoci Web. Ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in azione. Eccoci su Radio Giovani in Azione. Oggi vi stiamo parlando del servizio volontario europeo. Abbiamo visto di cosa si tratta e ora diamo spazio a un giovane palermitano, Salvatore Sino, ex volontario SVE, per capirne di più. Salvatore, quando e dove hai svolto la tua esperienza di SVE? Ciao a tutti, allora il mio SVE è stato svolto in Spagna, in un paese non molto conosciuto al centro nord della Spagna, si chiama Zamora, un piccolo paese di 60.000 abitanti, una cittadina. E comunque in questo paese era presente un centro molto importante, un centro di salute mentale, infatti mi occupavo di questo. In Spagna ci sono diversi centri che si occupano di salute mentale, appunto in questo centro ho svolto il mio volontariato. Come hai trovato il progetto e l'ente di invio? Allora, il progetto è stato molto interessante, infatti facevamo tantissime attività tutti i giorni, avevamo circa 40 pazienti, quindi la Fondazione Intras, la fondazione dove mi trovavo, organizzava tantissime attività come lavoro con carta riciclata, facevamo tante sculture di carta riciclata, dipingevamo anche cose di terracotta, articoli di diverso genere, e anche lavorare con le biciclette del comune, la riparazione delle biciclette del comune di Zamora, insomma tantissime altre attività che non sto qui a elencare, se no non ce ne ho più. L'ente era molto professionale, sono stati veramente molto, molto in gamba, e anche il mio ente di invio, che è l'Arcistrof di Mussomeli, che è un punto Eurodesk molto importante al centro della Sicilia. Puoi raccontarci la tua giornata tipo? Allora, la mia giornata tipo iniziava abbastanza presto rispetto ai tempi spagnoli, perché già alle 7 prendevo il mio autobus che mi portava al centro, dove lavoravo per le ore della mattina. Poi spesso rimanevamo al centro anche per la pausa pranzo, perché era molto piacevole rimanere con i pazienti del centro, infatti si era instaurato un rapporto molto, molto piacevole e positivo, quindi rimanevamo molto tempo là. Poi le 2 ore del pomeriggio passavano facendo qualche altro lavoretto, e poi a casa per la vita spagnola festosa che conosciamo un po' tutti. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Dimmi se la consiglieresti. Allora, mi ha lasciato tantissime cose. Io raccontavo prima che sono un ingegnere informatico, quindi questa attività va molto al di fuori delle mie competenze, però mi piaceva proprio perché stimolava molto i miei interessi, e qualcosa che non faccio normalmente nella mia vita. È stato molto edificante poter lavorare con persone che hanno dei problemi, aiutare qualcuno. Comunque gli SVE, i progetti SVE sono molto importanti e utili, perché oltre a imparare un'altra lingua, conoscere nuovi posti, tante altre persone, si può fare veramente qualcosa per il prossimo, per aiutare le persone, quindi lo consiglio per questo, per avere un qualcosa in più nella vita, qualcosa di molto edificante. Grazie Salvo, alla prossima. Grazie, ciao. Radio Libriamoci Web. Ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in azione. Ringraziamo nuovamente Salvatore Sino e chiediamo adesso ad Angela se è previsto per i giovani volontari un documento che attesti la loro partecipazione all'esperienza SVE. Sì, ai ragazzi viene rilasciato alla fine dell'esperienza un documento che si chiama Youth Pass, di cui abbiamo tra l'altro già parlato per altri tipi di misure del programma Gioventù in Azione. Lo Youth Pass in questo caso riconosce e attesta l'esperienza educativa, l'esperienza insomma formativa, dove per formativa intendo di apprendimento non formale, effettuata dal ragazzo. Lo Youth Pass viene rilasciato direttamente al giovane da parte dell'associazione che l'ha ospitato alla fine dell'esperienza SVE. Come può aiutare lo sportello a trovare un progetto di servizio volontario europeo? Lo sportello può aiutare i giovani interessati a un'esperienza di SVE innanzitutto indicando il database di cui parlavamo prima, cioè il database dove sono registrate in maniera aggiornata e immediata tutti i progetti approvati di servizio di volontariato europeo in tutta Europa, filtrati per criteri, la tematica, il paese di destinazione, la durata, che può essere un criterio interessante per chi per esempio studia e non ha la possibilità di stare via un anno, e gli obiettivi diciamo perseguiti dal progetto. Nello stesso database è anche possibile trovare l'ente di invio a cui il giovane deve appoggiarsi per poter partecipare ad un progetto di servizio di volontariato europeo. Quanto è aperto lo sportello e dove si possono trovare le informazioni? Lo sportello giovani è aperto dal lunedì al venerdì in piazza San Giovanni a Bivona, ma tutte le informazioni sono anche reperibili sul sito internet www.sportellogiovani.eu. Ringrazio nuovamente gli ospiti di oggi, Salvatore Sino e Angela Solaro, e do l'appuntamento a tutti voi a giovedì prossimo alle ore 18 e replica alle 22.30. Buona serata! Radio Gioventù in azione.